Sono le ore 14 e 12 minuti di sabato 17 marzo 2024. Gli amici di Loquis mi chiedono di raccontare un luogo con la voce e, ascoltando gli altri contributi di questa specie di collezione che stanno curando, sarei tentato di confezionare qualcosa di tecnicamente molto più accettabile, con magari compressori dinamici, magari leggendo un testo. Invece alla fine penso che se lo facessi farei solo disastri, e quindi improvviserò dall'auto, come ho sempre fatto. Per raccontare quale luogo? Beh, di solito racconto la periferia di Roma, in un luogo intorno a Roma, ma stavolta vorrei raccontare qualcosa di Pisa, perché diciamo spessissimo che la vera Roma non è il centro, ma è la periferia, non è il centro storico, diciamo, e questo è infinitamente più vero per una città come Pisa, che ha una sorta di enclave completamente turistificata, che sfugge completamente a qualsiasi regola della vita comune, a cominciare dalle regole del mercato, e cioè la zona di Piazza dei Miracoli, che è una vera e propria enclave, e poi c'è tutto il resto della città che non è un oggetto di narrazioni verso l'esterno, è come se non esistesse. Cioè, mentre sulla periferia di Roma, sui quartieri di Roma, insomma, sono state scritte tante cose, vabbè, è una grande città, però insomma quello che stupisce è che Pisa praticamente è una città invisibile. Una delle famose città invisibili, perché al di là di quell'enclave, con il Duomo, con la torre pendente, eccetera, il resto è qualcosa dove... Sì, ok, vivono i pisani, e poi vivono tantissimi studenti. Ed è proprio una di quelle tipiche situazioni in cui non vincono più i significati universali, no? che la città vuole esporre verso il mondo, ma semmai la sommatoria del senso individuale di ciascuno di noi. Per tanti studenti significa appunto spensieratezza, giovinezza, anche laurea, anche indirizzo di studi. Per tanti residenti può anche essere un fastidio, no? Tutta la movida di questi ragazzi che rimangono fino a sera a consumare sui Lungarno, e poi ci sono le feste di laurea che durano fino a molto tardi e sono molto rumorose, d'accordo. Però intanto, se non fosse per questa nuova generazione che vuole connotare la parte invisibile, la parte non connotata della città, forse oggi nessuno sarebbe stato in grado, per esempio, di farsi manganellare in occasione delle proteste per l'azione militare di Israele a Gaza. E se ci pensiamo bene, rispetto a tutte le altre manifestazioni che ci sono state nelle altre città, è stata proprio quella a invertire il rapporto di forza tra le due narrazioni. La prima, quella dominante di Israele, unica democrazia del Medio Oriente, vera e propria, che reagisce ad un brutale attacco terroristico, di fatto un atto di guerra, e adesso invece abbiamo un'altra narrazione che è sotto gli occhi di tutti, e cioè la reazione di Israele è qualcosa che si avvicina molto, se non proprio all'olocausto, una parola forse proibita, sicuramente, o a un genocidio, sicuramente a un eccidio di massa, a prescindere dalla collocazione storica. E quindi io voglio ringraziare Pisa, io che sono tra l'altro di origine lucchese e che sarei portato magari, no, ad associare il nome di questa città a qualcosa di deprecabile, come fanno tanti toscani, ormai scherzosamente, così scherzosamente che gli stessi pisani hanno quasi fatto propria quella parola, con orgoglio, perché appunto in realtà è una città che espone e dice tante cose importanti al mondo, anche al mondo moderno. Non dimentichiamo che oggi, per esempio, non saremmo qui a parlare in un microfono che registra un podcast se non ci fosse internet in Italia. E internet in Italia è nata, non dimentichiamolo, a Pisa. E questo perché a Pisa c'è un'eccellenza negli studi scientifici. È una città capace di raccontare tante altre cose che non sono soltanto le cartoline per i turisti. E che ho imparato a esplorare, a conoscere grazie all'Internet Festival, che è l'unico evento dove sono sempre andato, dal 2011, dalla prima edizione, fino addirittura all'edizione dell'anno scorso, dove una serie di vicende personali normalmente mi avrebbe tenuto fuori. Invece no, ho voluto esserci per omaggiare Pisa e per omaggiare Internet, visto che il libro che presentavo era Stiamo sprecando Internet, che ho pubblicato proprio l'anno scorso. Pisa per me è stato il luogo di tutti gli incontri, dentro la rete e fuori la rete, il luogo anche degli incontri casuali, del best effort, di un festival per molti versi imperfetto, dove accadono sempre tanti imprevisti, dove ci sono anche dei momenti di disorganizzazione, ma questa è la vita e questa è Internet. Tutto il resto non appartiene al piano della realtà, ma appartiene al piano della rappresentazione.